ha sofferto molto. Io lo so, ti ho visto allora. Ti avevano anche richiusa un po'. Eri indifesa e forse un po' offesa. Io lo so, non ti hanno capito neanche un po'. Ti ho vista però imboccarti le maniche. Ti ho visto la forza che hai. Ti ricordi, ti dicevo, adesso vai. Dormi solo per un po'. Poi mi ricordo quando quel giorno sei uscita e lì ti sei un po' impaurita. Poi con l'orgoglio e con la voglia che tu hai, hai guardato, hai detto dai. Poi mi hanno detto, ti hanno visto giocare, ti hanno visto anche amare. Poi hanno detto che hai cambiato anche città. Io lo so, per quel sogno che hai. Ora quei giorni sono passati, ma non dimenticati. Forse adesso sei serena e io ti dico come allora. Dormi solo per un po'.